Quante volte noi, leggendo la parola di Dio, stiamo leggendo Giacomo, siamo al capitolo secondo, oppure il Vangelo di Luca, capitolo 18. Dicevo, leggendo la parola di Dio, noi vediamo che è veramente bella, che veramente ci manda in crisi, e poi non riusciamo a viverla. Come è vero, Giacomo dice, noi facciamo le differenze, c'è niente da fare. E chi dice che non le fa, non è sincero con se stesso. È così, amici, facciamo le differenze, vuoi per la bellezza fisica, vuoi per la prestanza di una persona, vuoi per l'intelligenza, vuoi per la ricchezza. Vuoi per la casa, per la macchina, per tutto. Noi facciamo le differenze. E in genere stiamo col ricco, stiamo col bello, stiamo col forte. Il Vangelo ci dice che non dobbiamo seguire la ricchezza perché è difficile per un ricco entrare nel regno di Dio, eppure distinto, noi vogliamo. E allora cosa fare? Io sconsiglio dal fare dei propositi, anch'io stesso non li faccio più, perché fare un proposito vuol dire vivere in un modo non all'altezza. E dire, va bene, mi impegno a vivere meglio, ma come? Se non hai le forze, se non hai la capacità, hai solo la velleità, il desiderio. Ecco allora che scaturisce la preghiera. Quante volte sentiamo dire nelle apparizioni del cielo sulla terra, o sentiamo dire nelle scritture, o sentiamo dire dai predicatori, pregate, pregate, pregate, pregate. Perché cosa fa? La preghiera fa i miracoli, anche, ma soprattutto la preghiera davanti a Dio ci ottiene la forza, la capacità di vivere le cose che abbiamo capito. Gli apostoli dicono, come facciamo a vivere quello che tu ci dici di evitare le ricchezze per entrare nel regno di Dio? È impossibile. E Gesù risponde, ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Ecco, la preghiera fa esattamente questo. Ciò che è impossibile a noi di vivere, l'abbiamo capito, ma non riusciamo a farlo, andiamo dal Signore e gli diciamo, Signore, non sono capace di farlo. E ripeto per la centesima volta quell'esempio, magari ce n'è uno di voi che non l'ha mai sentito e gli serve. L'esempio di Santa Teresa di Gesù Bambino che ha promosso la piccola via, cioè ha tracciato con la sua vita e col suo insegnamento una strada buona per tutti, una piccola via. E lei dice in un suo scritto, quante volte io mi trovo a dover superare una difficoltà e non sono capace. Come un bambino che deve attraversare un piccolo ruscello e non ce la fa, ha paura. Allora si rivolge al suo papà e dice, papà, papà. Il papà lo prende in braccio e con due passi è dall'altra parte. Questa è la preghiera. Papà, papà.